Racconti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 20 giugno, sono le 19 primi e noi siamo in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano, in una formazione che anche questa puntata sarà ristretta perché in studio con me, oltre a Oscar Giannino che vi saluto e vi ringrazio, c'è Mario Seminerio. Ecco, e quindi un Mario Seminerio più in forma che mai, col quale vi terremo compagnia. Renato Cifarelli lo sentiremo telefonicamente alla fine della trasmissione, ma sia pure in formazione ristretta, naturalmente questo non cambia la formula della nostra trasmissione. Adesso io vi ricordo qual è lo spirito, naturalmente un po' per così dire caustico della nostra trasmissione. Ve lo ricordo con suonate la carica! Eccoci qua, lo sapete che siamo un pochino, per così dire, minoritari, ma convinti di dovervi fare riflettere sulle cose che succedono di settimana in settimana. E come sempre vi lancio i temi della trasmissione per consentirvi di iniziare a prenotarvi per l'intervento, per darci le vostre opinioni. Il numero di telefono è 800 24 0024, per gli sms 349 238 6666 e naturalmente anche sui social, l'account su Twitter Conti della Belva. Allora, di che cosa parliamo oggi? Secondo il modulo che molti di voi, mi auguro, abbiano oramai introiettato della nostra trasmissione, inizieremo con il punto sulla crisi di questa settimana, con quello che è avvenuto. Quindi Mario Seminerio ci spiega un pochino l'interpretazione dei conti della Belva sull'aggiornamento dei numeri degli occupati. Attenzione anche alla vicenda greca, visto che, sia pure con un po' di ironia, visto che ogni settimana è quella decisiva, però questa volta, la prossima settimana lo è davvero, con l'ultimo Consiglio Europeo del 25 e 26, e nel frattempo sapete che la situazione è l'impasse, un impasse rispetto al quale l'Italia non si capisce bene che cosa abbia pensato, a dire la verità. Un pensiero organizzato dal governo italiano intorno al calcolo delle convenienze per l'Italia rispetto all'uscita della Grecia non c'è mai stato, e quindi la domanda è: perderne 40 lo diamo per scontato di miliardi? C'era il modo di perderne meno? È realistico il modo in cui stiamo arrivando a questa scelta? Beh, vedremo anche su questo. Poi noi abbiamo due grandi temi su cui interrogarci. Faremo, vedrete, una riflessione anche per quello che è successo in settimana sulla Cassa Depositi e Prestiti, che è una vicenda di questa ultima 10 giorni che dà la cifra andreottiana del potere governativo. È una vicenda veramente paradossale per il modo in cui è stata condotta da Palazzo Chigi, per le trattative completamente oscure sul futuro della Cassa. Si sta decidendo del risparmio postale di voi italiani e in una maniera che a nessuno è risultato chiaro. Il come e il perché il governo si sia mosso, come si è arrivato alle conclusioni di ieri, eccetera eccetera, ne parleremo. E intanto vi chiedo già la vostra opinione su questo: vi sentite da risparmiatori postali al sicuro, visto che si parla di moltiplicare l'utilizzo del vostro risparmio postale ma non si capisce bene come e perché? Ditecelo. Poi abbiamo due grandi blocchi di argomenti. Partiamo con la vicenda che questa settimana ha rovinato le polemiche, cioè il decreto attuativo del Jobs Act relativo al controllo a distanza dei lavoratori dipendenti. Sentiremo ospiti con due tesi. La prima tesi è quella che si tratta di un grande fratello, un attentato, la volontà di fare un altro regalo alle imprese contro i loro dipendenti. L'altra è quella che si tratta di un aggiornamento semplicemente delle norme precedenti sullo studio dei lavoratori alle nuove tecnologie, ma in realtà con delle garanzie ferre nei confronti dei dipendenti. Però il problema è capire voi come la pensate. E quindi se vi regolerete diversamente sull'utilizzo per esempio del cellulare dell'azienda o del PC dell'azienda, visto che comunque il rilievo disciplinare, se fate i cavoli vostri con gli strumenti aziendali, potrebbe diventare, con queste norme, più rilevante. Questo è poco ma è sicuro. Quindi, prima questione: grande fratello oppure è una fuffa di adrenalina e muscoli? Poi un secondo grande blocco di problemi che riguarda i giovani professionisti, perché è uscito l'aggiornamento dei dati sui loro redditi. Noi viviamo oramai in un paese in cui i giovani avvocati, i giovani architetti, lasciamo perdere poi i freelance che sono professionisti senza ordini, hanno dei redditi tra i 15 e i 18 mila euro l'anno, cioè hanno dei redditi che sono praticamente la metà di quelli della media dei dipendenti pubblici italiani. E la domanda che vi facciamo, se siete giovani professionisti, chiamateci per farci capire perché avete fatto questa scelta. Non ve lo aspettavate? Perché è che questo è un po' difficile, eh? Secondo, come pensate di venirne a capo? Terzo, c'è un problema di ancora barriere all'ingresso? Oppure che cos'è che vi uccide? Il fisco, la previdenza? Ma perché uccide soprattutto voi più giovani rispetto agli altri? Ecco, quindi queste sono le questioni della trasmissione. Però iniziamo immediatamente da che cosa ci ha fatto arrabbiare questa settimana. Mario, cosa ti ha fatto arrabbiare? Ma mi lascia molto perplesso questo passaggio del viceministro agli esteri Lapo Pistelli, che è diventato vicepresidente senior di Eni, per il modo in cui, diciamo, è stato comunicato a livello sia dall'interessato, per come è stato gestito a livello mediatico, nel senso, qui abbiamo una persona che fa politica da sempre, che comunica al popolo che all'età di 51 anni ha deciso di reinventarsi e quindi con somma gioia si sposta nella più importante impresa pubblica italiana, provenendo dal Ministero degli Esteri. Ora, la forma è salva perché l'antitrust si è pronunciato ai sensi della legge Frattini, quella che disciplina, si fa per dire, il conflitto di interesse in questo paese, e per cui nulla osta perché non c'è potestà autoritativa del Ministero degli Esteri sull'attività di Eni, eccetera eccetera. Però, cioè, bisognerebbe evitare di prendersi in giro, nel senso che motivi banalissimi di opportunità politica richiederebbero almeno un minimo periodo di decantazione, anche perché aveva proprio la delega, tra le altre, alle strategie energetiche, Pistelli, sì, cioè, proprio leggermente, no? Poi vabbè, abbiamo appreso che sono tutti entusiasti, dal Presidente della Repubblica che ha esplicitato il suo consenso al Presidente del Consiglio, insomma è un trionfo, diciamo. E poi soprattutto Pistelli ha detto che negli Stati Uniti, no, c'è questa idea delle porte girevoli, questa fertilizzazione incrociata tra il pubblico e il privato. Ora forse o Pistelli non ha chiaro, diciamo, come funziona negli Stati Uniti il discorso del conflitto di interessi, e negli Stati Uniti c'è un problema enorme di porte girevoli, nel senso di gente che passa dal settore privato finanziario nello specifico alle autorità di regolazione e viceversa. Gli Stati Uniti non sono necessariamente un modello. Esatto. Quindi cerchiamo di salvare la sostanza in minima parte, oltre che la forma. Non rileva che l'antitrust abbia detto per noi va bene. La legge Frattini, sotto questo punto di vista, è un colabrodo. C'è una cosa che si chiama opportunità politica che richiederebbe di astenersi almeno per qualche periodo. Poi io sono lieto che a 51 anni una persona che fa politica da 28 riesca a reinventarsi e vada a lavorare, diciamo, nell'industria petrolifera. È notevole questa cosa, mi fa piacere per lui. Spero che molti altri italiani, che magari in questo momento con un CV di tutto rispetto hanno rilevanti problemi a ricollocarsi, riescano ad avere lo stesso tipo di opportunità e possano annunciarlo ottenendo anche il plauso delle più alte cariche dello Stato. Ecco. Sono molto d'accordo con te. Aggiungo due pillole. Questa settimana io ho letto con grande attenzione l'enciclica Laudato Si del Papa, e devo dire, su alcuni passaggi, io rispetto, il Papa fa il suo mestiere eccetera eccetera, non sono assolutamente d'accordo, vi sottolineo che sugli OGM comunque c'è un punto di vista aperto, sì, sulle questioni, che è molto più avanzato di quello della politica italiana, eh? No, oggi no. Tra l'altro leggetevi il bellissimo articolo di Elena Cattaneo su Repubblica sugli OGM, ma su molte altre cose non sono d'accordo. La mia domanda al Papa è, comunque, visto che leggiamo le trascrizioni delle intercettazioni del cardinale nonché prefetto all'educazione cattolica Versaldi, che beccava, proponeva di prendere 30 milioni di denaro pubblico per il Bambino Gesù per un altro istituto scassato dal punto di vista finanziario di sanità, l'IDI, dicendo non diciamolo al Papa, ecco, io vorrei che quello venisse cacciato dalla carica di prefetto all'educazione cattolica, nonché dal collegio dei cardinali. Ecco, siamo che diano il buon esempio coloro che poi dicono che altrimenti lo stato imperialista delle multinazionali della finanza è fatto solo da impropri conflitti di interesse. Io, un cardinale nonché prefetto all'educazione cattolica che parla in quel modo, protetto del cardinale Bertone e così via, penso che il Papa farebbe bene a metterlo alla porta. Seconda cosa, questa settimana esplode il bubone a Roma dell'aumento verticale sotto la sindacatura di destra Alemanno dei salari di merito. che naturalmente la destra con i sindacati a Roma spalmano tra tutti i dipendenti e tutti i dirigenti, e quindi si passa da 66 milioni nel 2008 a 345 nel 2013 e 360 nel 2014, quando c'è il cambio di gestione. Ecco, il MEF è riuscito, intervenendo in maniera, confondendo la polemica tra PD e Marino con le sue cariche, con lo suo incarico istituzionale, è riuscito nel capolavoro di trasformare uno schifo di vicenda, che sottolinea le improprie commissioni tra politica clientelare e sindacato egualitarista, in una specie di autogol, perché avendo chiesto la restituzione che non poteva chiedere, non avrà la restituzione, e risulterà ancora più difficile a Roma e in tutta Italia tagliare per il futuro il fondo di dotazione dei finti salari di merito, quando invece la vicenda di Roma dava proprio la possibilità per farlo, non solo a Roma ma altrove. Non avverrà niente di tutto questo, e quindi il segnale paradossale è una specie di incoraggiamento a continuare a fare così. Inutile dire che a Roma i sindacati da una parte, la destra dall'altra e la sinistra che appoggia Madino, tutti quanti si sono trovati uniti nella linea non si tocca un euro. Bene, la mia idea è che così si va a sbattere. Ma avremo un'altra legge per Roma Capitale, altri soldi eccetera, per pagare i famosi salari di merito, che dovrebbero essere per definizione una componente variabile, e invece è diventata una componente retributiva fissa? Diciamolo ai contribuenti italiani, Roma Capitale vi costa un capitale, in ogni aspetto, diciamo. Detto questo, cari amici, se oggi sfogliate Repubblica e vedete un PD che nei sondaggi di Diego Damanti scende al 32%, forse nel PD è meglio che si chiedano se vicende come quella romana, l'incertezza, il modo con cui Renzi si è rivolto a Marino e così via in questa settimana, non contribuisca potentemente al loro calo di credibilità. C'è una nuova corrente nel PD, i né gufi né struzzi, auguri, perché lo zoo offre naturalmente molte possibilità. Allora, un minuto perché siamo in ritardo, informazione strada, e poi riprendiamo con Mario su a che punto la crisi. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. E eccoci tornati in diretta alle 10:22:37 secondi in questa formazione ristretta dei conti della belva. Mario Seminerio e Oscar Giannino, e cominciamo dalla nostra rubrica di inizio trasmissione abituale: a che punto è la crisi? Sto vivendo una crisi, è una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Insomma, in realtà per i nostri ascoltatori è Seminerio in crisi, questo è il nostro sottotitolo. Allora, questa settimana nuovi dati sul lavoro e poi l'avanzamento della crisi greca. Che cosa ci ha regalato l'Istat questa settimana sul lavoro, Mario? Questa settimana Istat ha presentato una nuova serie storica che è molto importante, perché serve ad affinare la conoscenza di quello che sta succedendo, diciamo, sul nostro mercato del lavoro e sull'occupazione. Quindi bisogna dare un plauso a Istat per tutta questa attività di conoscenza che stanno sviluppando. Praticamente hanno introdotto il numero delle posizioni lavorative dipendenti, perché chiaramente quando noi guardiamo i dati di occupazione, quello è un calderone, diciamo, riguarda il lavoro dipendente, il lavoro autonomo e quant'altro. Allora, nel primo trimestre 2015 le posizioni lavorative su industrie e servizi sono diminuite dello 0,1% sul trimestre precedente. Diminuite. E quindi va un po' meglio rispetto ai primi tre mesi del 2014, perché c'è un aumento dello 0,8%. A fronte di tutto ciò c'è un aumento abbastanza importante delle posizioni in somministrazione. Però c'è un altro dato interessante, che è il totale delle ore lavorate. Chiaramente un'economia la si misura non solo e non tanto dal numero delle teste che sono al lavoro, ma dal numero delle ore lavorate che quell'economia produce. Mi sembra abbastanza intuitivo, ma evidentemente non lo è per tutti. No. E quindi sempre per industrie e servizi, nel primo trimestre di quest'anno, su base destagionalizzata, abbiamo meno 0,2% rispetto al trimestre precedente, mentre rispetto a un anno fa, primo trimestre 2014, corretto per gli effetti di calendario, abbiamo una invarianza, cioè crescita zero delle ore lavorate. Quindi, ribadisco, non mi pare esattamente un indicatore di sviluppo dell'attività economica e dell'attività di lavoro dipendente. Se poi andiamo a vedere le ore lavorate per dipendente, quindi il pro capite, il primo trimestre di quest'anno la variazione è zero, mentre rispetto allo stesso trimestre di un anno fa siamo a più 0,2. Per cui nella migliore delle ipotesi mi pare che si possa parlare di stagnazione. Esatto. Questo conferma comunque quello che sappiamo da tempo, cioè è in corso una ripresa ciclica sulla base di fattori pressoché irripetibili, molti dei quali si sono già parzialmente attenuati, quindi diciamo ad esempio il cambio dell'euro, ad esempio l'andamento dei rendimenti sui titoli di Stato che sta risalendo, per cui sono tutti elementi, e poi abbiamo, ripeto, alcune condizioni di incertezza congiunturale che non sono lievi, quindi abbiamo la costante spada di Damocle della Cina, anche se molti ne parlano poco e nulla, la situazione greca, vabbè, quello lo sappiamo, diciamo il quadro d'insieme è abbastanza fragile. E di sicuro però dovrebbe indurre a non usare più quei toni che abbiamo visto negli ultimi due mesi, no? Un po' perché più di sobrietà non guasterebbe. Per il momento tutti i dati che escono stanno confermando l'invito alla prudenza, oltre che a vedere i numeri per quello che sono e non stravolgerli, che è un po' il nostro punto di vista. Forse diventa anche quello dei negufini struzzi della nuova corrente del PD. A proposito di Grecia, visto che si avvicina lunedì vertice speciale, il Consiglio europeo il 25-26 è l'ultima occasione prima che i 30, la Grecia attualmente non in grado di pagare il 1.600 milioni di dollari che deve al Fondo Monetario. Poi ricordo che il 20 luglio ci sono altri quasi 3 miliardi e 8 dovuti di euro, questa volta alla BCE. La Grecia non è in condizione di pagarle, siamo allo stallo. Allora questa settimana Mario si è posto il problema di capire uno dei punti del braccio di ferro che è intorno a come si realizza un avanzo primario già molto più modesto di questo, di quello richiesto alla Grecia, riguarda, oltre al no alla ripresa delle assunzioni di 15.000 dipendenti pubblici, oltre al delicato punto aumento dell'IVA oppure no, è incentrato sulla riforma previdenziale, su cui si leggono molte cose che non si capiscono. Come stanno le cose davvero sulla riforma previdenziale? I greci dicono l'abbiamo già fatta selvaggia, Mario. Le hanno fatte due nel 2010 e nel 2012 e il problema è che praticamente la decorrenza, l'entrata a regime di queste variazioni di normativa previdenziale è lentissima e ha preservato e ha tutelato tutti i cosiddetti diritti acquisiti che erano in essere prima di queste riforme. Quindi l'effetto di trascinamento è molto lento e la spesa pensionistica continua ad essere, a crescere in maniera molto robusta. Non solo, si è calcolato che c'è stato un vero e proprio esodo di lavoratori nelle more di queste riforme pensionistiche, al punto che la quasi totalità di quelli che pensavano di andare in pensione o che sarebbero dovuti andare in pensione entro questo decennio stanno andando o sono già andati, perché non sono state poste, sono stati posti dei paletti per fermarsi sulle uscite. E quindi questo ha fatto esplodere la spesa pensionistica. Il crollo del PIL greco ha fatto il resto e quindi il rapporto tra la spesa pensionistica e il PIL è andato fuori controllo. Ma le stesse proposte originarie, adesso le ultime che sono state mandate avanti da Tsipras e dallo stesso Varoufakis, che prevedono un innalzamento progressivo, la chiusura delle scappatoie di pensionamento anticipato, sono estremamente blande e vanno a pieno regime dal 2020 in avanti. Ora io ribadisco, non è che qui stiamo parlando di una Grecia che trascina completamente i piedi, nel senso che non accettano, perché il danno è visibile e manifesto, no? Non sarò io quello che dice che la Grecia non ha fatto nulla. Il problema è che il paese è stato talmente terremotato da misure economiche irrazionali, no? Che in questo è la colpa è oggettivamente dei creditori, che adesso i margini di manovra sono praticamente nulli. Loro ce n'hanno messo del loro, però, no? Perché loro avevano Loro avevano la tipologia dei lavori usuranti, c'erano quasi 600 tipologie di lavoro usurante che permettevano di andare in pensione a 55 anni o giù di lì, anche con una contribuzione minimale. Tra quelle tipologie di lavoro usurante c'erano anche i parrucchieri, cioè, no? Dopodiché esatto. O i conduttori radiotelevisivi a causa dello sviluppo di flora batterica sui microfoni. Per cui, cioè, voi capite che è abbastanza drammatica questa cosa, però al di là di tutto... E se fossero state imposte delle strette pensionistiche con efficacia retroattiva e dopo la Corte Costituzionale le avesse bocciate? Per cui il cane si morde la coda. Ma ricordate, la Grecia non ha nessun potenziale di export. Questo fatevelo tenere bene a mente. Per me un paese sovrano democratico può fare quello che preferisce. Può anche uscire domattina. Certo. Non è un problema. È questo il discorso. Però... Per esempio adesso sento dire che la BCE sta attuando un golpe strisciante, cioè la BCE sta semplicemente attuando i trattati, non un esatto. golpe strisciante, perché nel momento in cui la Grecia dovesse fare default, le banche greche per definizione fanno default, si può prestare in condizioni anche di emergency liquidity assistance a banche che sono andate in default? No. No. Per cui, cioè, la colpa è di tutti. La colpa è di tutti. Resta il fatto che io sono molto colpito da come nelle ultime settimane ci sia stata l'assenza di un confronto chiaro, per così dire, da parte della stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione Europea. Io metto l'Italia per prima. Io avrei preferito un governo che facesse un esplicito conto delle convenienze per un paese che alla luce delle regole dei trattati, giustamente richiamate da Mario, però la domanda era: i nostri 40 miliardi che la Grecia ci deve, quanti ne perdiamo con maggiore probabilità a seconda di quello che avviene? Perché mi sembrerebbe una strategia ragionevole questa, cioè noi siamo sicuri che ne perdiamo di meno di quei 40 con un Grexit incontrollato, un'uscita greca incontrollata? Ecco, io credo proprio di no, anzi credo il contrario, ho buttato giù anche due conti questa settimana, li ho pubblicati su un giornale, credo di no, ma mi sarebbe piaciuto vedere ragionamenti di questo tipo. Per esempio, negli ultimi due mesi oramai il Fondo Monetario, per esempio Olivier Blanchard, che è il suo capo economista, in realtà la pensa come i greci, non come l'Unione Europea, cioè Olivier Blanchard ha scritto in due occasioni: guardate che le riforme che stiamo chiedendo, esattamente come diceva Mario, alla luce di quello che gli abbiamo chiesto prima, sono un po' irragionevoli per come sta la Grecia oggi, l'IVA per esempio, aumentare l'IVA. Dice: forse sarebbe più ragionevole, questa è la tesi di Blanchard del Fondo Monetario, accettare una parte di quel abbattimento, consolidamento del debito, cioè abbattimento del valore del debito nelle mani a questo punto degli euromembri, perché ci perdereste meno rispetto a quello che perdete altrimenti dicendo no a tutti. Una strategia razionale, tenuto conto che il Fondo Monetario dice queste cose dopo aver dovuto dire pubblicamente che ha sbagliato tutto nel 2011-2012. Ecco, però l'Unione Europea è a questo rimasta impermeabile. Sappiamo perché: i tedeschi hanno un problema a casa loro, perché stanno dovendo votare il Bundestag per nuovi aiuti, nella CDU CSU ci sono 70 parlamentari oramai che dicono no, Schäuble è più duro, e io rispetto anche questa posizione tedesca, che almeno deve votare in Parlamento ogni volta. Come e perché l'Italia però non abbia detto nulla, per me questo è un mistero. Tu come la pensi? Allora, sì, Blanchard ha avuto questa sorta di conversione a U nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, che è notevole, quasi commovente, siamo lieti per lui, e che comunque lui è in uscita. Sì. Poi il Fondo Monetario Internazionale ha sbagliato moltissimo in tutta questa vicenda. Il dramma dei paesi creditori è che non sono riusciti a controllare le riforme, perché per controllare le riforme di un paese sovrano bisogna occuparlo militarmente e mettere una giunta che le attui. No, e questo è il problema, diciamo. È una battuta, sì, no, esatto, è una battuta, però diciamo. Quindi la Grecia ha preservato in tutti questi anni le aree di privilegio. Hanno colpito praticamente quelli che avevano meno voce. Complessivamente hanno preservato robustissime aree di privilegio, la stessa Siriza, ma è vero che in 4 mesi non hanno avuto molto tempo per riformare, non ha toccato alcunché, esistono robustissime rendite di posizione parassitaria, è un paese che per molti aspetti è simile al nostro, perché è fatto di cricche, di conventicole, di un corporativismo malato. Quindi la colpa è dei creditori, che si sono fatti bastare interventi profondamente iniqui e anche di vera e propria macelleria in alcuni casi, è colpa dei governi che si sono succeduti in tutti questi anni, è colpa di tutti. è colpa di tutti, cioè la Grecia è realmente il libro degli orrori di questa eurozona. E forse di fronte alla rottura, che sarà una rottura storica rispetto all'evoluzione europea della moneta unica, il presupposto deve essere quello che tutti ammettessero, abbiamo tutti sbagliato. Esatto. Ecco, questa era la cosa vera che non c'è stata. Va bene, allora adesso torniamo tra un minuto e iniziamo con la domanda. Ma le nuove regole di Jobs Act sono il grande fratello delle aziende, regalo a Confindustria del governo sui lavoratori dipendenti? Oppure no, e sbaglia chi lo dice. A tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati in diretta con la formazione ristretta dei conti della belva, Mario Seminerio e Oscar Giannino, e entriamo nel punto delicato, il punto delicato rappresentato dall'articolo 23 del decreto legislativo varato dal governo in attuazione del Jobs Act. E questo articolo 23 questa settimana è esploso, ha arroventato le polemiche, perché interviene sulla disciplina dei controlli a distanza, riscrivendo, aggiornando quanto previsto l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori. Ci sono due tesi a confronto e noi abbiamo due ospiti per parlarne. La questione delicata è che rispetto al quanto prevedeva l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, diciamo che non è più necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione ministeriale per quello che riguarda le nuove norme sul controllo a distanza dei dispositivi messi dall'azienda a disposizione dei dipendenti, cioè computer, tablet, telefonini e anche i badge e altri strumenti. Avete letto cose sui giornali contrapposte, quello che è chiaro è che la tutela della privacy resta, quindi le aziende non possono leggervi la posta, per essere chiari, possono però verificare l'utilizzo che fate di questi strumenti, possono geolocalizzarvi, ma solo dietro precise garanzie, ha già sancito il garante della privacy, questo accadde nel novembre scorso. Detto questo, la materia è di quelle un po' scivolose. Ecco, l'ex garante della privacy, professor Pizzetti, questa settimana ha detto: sono regole aggiornate, ma non è licenza di spiare i dipendenti. Allora, iniziamo chiedendo al segretario della UIL, Carmelo Barbagallo, come, intanto ringraziamolo di essere con noi. Buongiorno Barbagallo. Buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori. E allora, voi come avete letto invece queste norme del decreto legislativo? È vero che sono un aggiornamento rispetto ai nuovi mezzi tecnici, oppure è un attacco ai dipendenti e al sindacato? Intanto la norma era regolata dagli accordi sindacali, quindi non ne vedevamo il motivo di fare quest'ulteriore norma. Poi, come sta facendo questo governo per tutta una serie di materie, c'è uno spostamento di poteri verso l'impresa che può fare quello che vuole. Poi il garante ci dirà che non c'è libertà di spiare, ma se siamo tutti spiati nel mondo, come facciamo ad avere questa certezza? Poi il presidente della Confindustria ha detto che chi è pulito non ha timori, non deve avere timore. È vero che alcuni imprenditori si lavano la coscienza dopo aver fatto tutta una serie di atti che non sono certamente puliti. Quindi, insomma, mi pare che voi siete di una tesi durissima: c'è l'attacco ai lavoratori, ai dipendenti, diminuiscono le garanzie. Alcuni sostengono però che in realtà il più della vostra reazione, segretario, dipenda dal fatto che si restringe la sfera degli accordi sindacali su questa materia. È un po' così anche o no? No, perché non fa parte degli accordi nazionali, fa parte degli accordi aziendali. Esatto, quindi sì. Quando ci dicono che dobbiamo discutere a livello aziendale, nelle aziende dove c'è l'evoluzione della situazione tecnologica si discute con i componenti dell'RSU, si fanno gli accordi così come è sempre stato fatto, perché questa fa il paio col demansionamento per legge. Noi i demansionamenti li abbiamo sempre contrattati, e ancora qui una volta, a livello aziendale. E invece adesso per legge si dà il potere all'impresa di fare quello che vuole. Allora, sentiamo l'opinione di un giurista, un professore di diritto del lavoro alla Bocconi, Maurizio Del Conte. Buongiorno e grazie di essere con noi, professore. Buongiorno a tutti voi. Che ne pensa di quello che ha sentito detto da Barbagallo rispetto alla norma come l'ha letta lei? A me pare che il segretario Barbagallo abbia detto una cosa molto giusta, cioè la materia può essere regolata da accordi collettivi e così come la era prima potrà continuare ad esserlo dopo. Cioè non è che la legge vieta la possibilità per le parti di regolare la materia attraverso contrattazione collettiva. Il fatto è che molto spesso con riferimento a questi dispositivi, cioè con riferimento in particolare ai cellulari, ai GPS, insomma a tutto quello che è non strettamente legato al controllo ma a un uso promiscuo ed è portabile, normalmente questi accordi non si fanno, si fanno soltanto in determinate realtà. Allora io credo che da questo punto di vista la legge non cambia nulla, nel senso che se il sindacato vuole che questa materia sia regolata, si siede al tavolo col datore di lavoro e la regola esattamente come era prima. Che dice Barbagallo? Non cambia nulla, che motivo c'era di fare una legge che in alcune realtà può diventare un abuso? Beh, perché naturalmente io a questo punto io controsservo all'avvocato Del Conte che ci sono tante piccole aziende in cui il sindacato non c'è, quindi da questo punto di vista Barbagallo potrebbe avere un punto a suo favore nel dire che una norma sposta comunque in quelle realtà l'equilibrio precedente a un altro equilibrio. Che dice, professor? Ma la verità è che se non c'era il sindacato prima non ci sarà neanche domani, cioè vorrei che chiarire questo punto. Fino ad oggi questi particolari dispositivi di cui stiamo parlando non erano considerati comunemente strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, quindi non venivano soggetti a quella procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del Statuto dei lavoratori, che dice o trovi l'accordo o vai dalla direzione territoriale del lavoro, diciamo il vecchio ispettorato, e ti fai mettere il timbro. Nella stragrande maggioranza dei casi, e soprattutto nelle piccole aziende, non veniva fatto alcun accordo né alcun tipo di visura da parte dell'ispettorato. Cosa cambia oggi? Viene precisato che per questi particolari strumenti l'accordo o la visura non è necessaria, ma certamente non è vietata. D'altra parte però si specifica anche che con riferimento a questi strumenti l'uso che se ne può fare può essere vincolato da due precisi limiti. Primo, esclusivamente con riferimento al rapporto di lavoro, quindi io non posso andare a verificare per esempio la geolocalizzazione di un lavoratore scoprendo che fatti personali, diciamo così, non esatto. Entriamo nei dettagli esatto. Del lavoratore, perché queste sono informazioni di cui non posso fare alcun uso. Secondo, la legge richiama per la prima volta, ricordiamolo, all'interno specificamente dello Statuto dei lavoratori, la privacy, la legge sulla privacy. Ecco, quindi, e questa potrebbe essere la vera risposta, Barbagallo. Mentre prima le linee guida del garante, che erano già uscite a tutela della privacy dei lavoratori, in realtà non avevano il valore di legge, e quindi di fronte a un'eventuale contestazione il giudice poi era libero di interpretare. In questo modo, assumendola invece una legge col decreto legislativo sul Jobs Act, diventano più cogenti a tutela del lavoratore. Sbaglio, professor Del Conte? È così a mio modo di vedere, nel senso che teniamo presente che il garante ha un potere, ma è una normativa secondaria, non è la legge. Certo. Il fatto di aver portato... Esatto. Dentro lo Statuto dei lavoratori la legge sulla privacy è un fatto assolutamente nuovo. Allora, che a mio modo di aspetti, vedere anche secondo me aggiorna le garanzie. Aspetti. Non è così. Esatto, è così. Noi dobbiamo adesso consentire a Barbagallo di rispondere ed è quello che facciamo, però dopo un minuto di pausa poi riprendiamo Barbagallo, perché noi abbiamo sostenuto una tesi e adesso sentiamo il sindacato che dice: "Ma non mi convincete". Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta alle 10.48, primi 29 secondi. Mario e Oscar, stiamo parlando con il segretario della UIL, Carmelo Barbagallo, e con il professore di diritto del lavoro in Bocconi, Maurizio Del Conte, su questa nuova norma di attuazione del Jobs Act sulla questione dei controlli a distanza. Eravamo arrivati a un punto in cui il professore Del Conte diceva: però questa norma eleva il valore come fonte del diritto delle tutele ai lavoratori posti al garante della privacy, che però non erano legge, così diventano legge, e a questo punto spettava Barbagallo dirci se non lo convince questo argomento e perché. Prego Barbagallo. E allora, il professore ha citato le aziende dove non c'è sindacato, dove già i lavoratori sono più deboli nei confronti degli imprenditori. Ha citato pure il fatto che lo statuto dei lavoratori non è applicato al di sotto di 15 dipendenti. Quindi già ci troviamo in una condizione che non verrà mai richiamato lo statuto dei lavoratori sulla privacy per questi lavoratori e gli abusi si moltiplicheranno. E allora, che se, così come ha detto il professore, non cambia niente con la legge, perché la legge è stata fatta? Beh, però il elevare la fonte giuridica della tutela della privacy secondo linea del garante vale per tutti, immagino, non vale a seconda della soglia del dipendente dell'impresa. Professor Del Conte, che dice? Ma sì, certo, vale per tutti. Per dare una risposta all'obiezione del segretario, perché farlo? Farlo perché una norma che è ferma alle videocamere del 1970 mi sembra fosse operazione dovuta, e che fosse anche operazione dovuta il richiamo a una legislazione che è venuta decenni dopo, il 1970, e che oggi ha giusto titolo, secondo me, la necessità di essere inserita direttamente nello Statuto dei diritti dei lavoratori. Dopodiché è evidente che quel che veramente cambia con questa norma è la possibilità, ma lasciamo perdere il palmare o il GPS, perché questo secondo me è stato molto enfatizzato, perché sembra suggestiva questa cosa che tutti noi abbiamo in mano un palmare e quindi tutti noi riteniamo di essere tracciati 24 ore su 24, ma la vera novità è che il datore di lavoro potrà utilizzare gli elementi che derivano da queste informazioni tratte da questi dispositivi con riferimento al rapporto di lavoro. Questa indubbiamente è una novità, ma è una novità che viene anche preceduta da un obbligo di informazione, esatto, del lavoratore, e quindi a mio modo di vedere si fa un'operazione di trasparenza che supera quel velo di ipocrisia secondo il quale il datore di lavoro faceva finta di non conoscere quello che in realtà aveva già a sua disposizione, cioè il datore di lavoro ha a disposizione i dati, poi gli si può anche dire che non li può usare, ma in realtà ce li ha a disposizione, e quindi tutte le decisioni che può trarre da questi dati sono evidentemente da essere. E diciamo che siccome la giurisprudenza, il giudice del lavoro ha valutato in Italia in casi di questo tipo in maniera difforme il diritto dell'azienda di procedere o meno disciplinarmente verso i lavoratori, in questo caso almeno gli si dà un'inquadrata generale, cioè l'inquadrata generale è quella di dire che comunque l'azienda dovrà dare un'adeguata informazione al lavoratore sulla modalità d'uso degli strumenti, sull'effettuazione e la modalità del tipo di controlli, mentre invece si arrivava in tribunale in condizioni nelle quali non c'erano nessuna delle due garanzie, o no? Esattamente, ci sono tre principi fondamentali. Primo, informazione circa l'uso e l'utilizzo che verrà fatto di questi strumenti, e naturalmente informazione che questo utilizzo verrà fatto. Secondo, la possibilità appunto di utilizzare questi strumenti solo nell'ambito della legge sulla privacy, quindi con tutte le garanzie che questo comporta. Terzo, se per questi strumenti il sindacato esiste e vuole fare un accordo, questo accordo è sempre comunque aspetti la possibile. Fermo, perché ho sentito che Barbagallo in sottofondo diceva un secco no. Prego Barbagallo. Io veramente non l'avevo ancora detto, però avevo sentito. No, non le voglio attribuire un'opinione a tavolino, si figuri. Però, così come ha spiegato il professore, si vuol consentire alle aziende più facilmente di utilizzare questi strumenti senza contrattare con il sindacato aziendale. Ecco, diciamo che il punto è che basta informare il lavoratore. Inoltre si toglie al magistrato la possibilità di intervenire, perché ormai si è deciso che questi strumenti il datore di lavoro li può utilizzare. È come la storia dei licenziamenti più facili, è come la storia del demansionamento per legge. Si sta agendo sullo statuto dei lavoratori, modificandolo senza discutere con i lavoratori, senza discutere seriamente sul perché, su come può cambiare lo statuto. Allora, qui io rispetto, però questa è una lettura generale. Io le posso dire, io sono un lavoratore autonomo, qui arrivano migliaia di lettere degli autonomi. Aspetti, glielo dico, perché questa settimana io ho visto le lettere che arrivavano degli autonomi, e questo lo dico senza nessun compiacimento, perché a me non piacciono le campagne che dividono il mondo del lavoro italiano, cioè autonomi contro dipendenti e così via. Allora, dopo le reazioni sui giornali, i primi due giorni, moltissimi autonomi ci dicono qui noi lo Stato pretende di sapere meglio di noi qual è la nostra cifra d'affari, di imponibile, l'imposta, e se deviamo di un millimetro dobbiamo noi dimostrare che non è così. Invece il sindacato crede che i lavoratori dipendenti abbiano il diritto di utilizzare i cellulari e i PC per i fatti loro invece che per quelli dell'azienda. Naturalmente è un paradosso, Barbagallo. Ecco, è un paradosso. Ma noi non generalizziamo. Oggi veniva fuori un dato che in questo paese bisogna lottare per eliminare 153.000 leggi e le relative note diciamo esplicative, che fanno sì che in Italia fare impresa è un'impresa. Sì. E eliminare 60 miliardi di corruzione dove... Aspetti però, se mi prende questa piega io la devo fermare, perché ci dobbiamo fermare a questo. Comunque abbiamo dato le due letture e poi ricominciamo con una telefonata proprio su questo, però ci sentiamo dopo l'interruzione generale. Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Della belva. Eccoci tornati in diretta alle 11:08 primi in questo sabato 20 di giugno. I due compari di Informazione Ristretta oggi dei Conti della Belva, Mario Seminerio, Oscar Giannino. Abbiamo sentito le voci del segretario della UIL Barbagallo e del professor Del Conte su il discusso articolo del nuovo decreto legislativo di attuazione del Jobs Act sul controllo a distanza dei lavoratori. Prima di andare al nuovo blocco di argomenti su i professionisti poveri del nostro paese, i poveri avvocati, i poveri architetti e così, poveri davvero, sono un problema ovviamente di capitale umano mal allocato, forse di errori anche nel credere che queste professioni non fossero ingrippate, ma comunque lo vedremo tra poco. Ci sono però prima ancora delle telefonate sull'argomento che abbiamo esattamente toccato prima, e quindi sentiamo Marco da Piacenza, per esempio. Marco, prego. Buongiorno Giannino. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire appunto su questa questione del lavoro. Sì. Lavoro per un'azienda pubblica, noi abbiamo già comunque tutti i computer da tempo tracciabili, nel senso che comunque il server interno riesce a vedere i siti che vediamo, abbiamo i siti bloccati, abbiamo le email controllabili al secondo. Qualche volta, quando per questione di lavoro devo uscire, magari così contesta il fatto che chiamandomi al mio cellulare personale non mi hanno trovato, perché magari in una zona non coperta, ma questo è sacrosantemente vero. E devo dire che comunque, dicendo la mia opinione su tutto ciò, ho sentito Renzi dire che questa del Jobs Act è una riforma epocale. Lo è, è vero, è epocale, perché comunque stiamo facendo dei passi indietro e stiamo ritornando al periodo subito dopo la rivoluzione industriale, a livello di diritti e di attenzione verso le persone che lavorano. Il fatto che si spertichino a dire che poi tutti i dati non possono essere utilizzati è strumentale, perché comunque i dati ci sono e in qualche modo influenzeranno le decisioni e le cose. Ora, se si vuole arrivare a dire va bene, facciamo questa rivoluzione, cerchiamo di dare ulteriori vantaggi agli imprenditori, a Confindustria, ai grandi imprenditori industriali, se ne fosse bisogno, io vedo solo cose a loro favore, almeno cerchiamo di aggiornare anche le retribuzioni a livello europeo, ad esempio. Cerchiamo di partire da lì per aprire un grande tavolo e una contrattazione nuova sulle nuove regole del lavoro. Allora, rispetto a tutti i punti di vista, io per primo con Mario Seminario abbiamo ragionato sul fatto che effettivamente le modifiche da contratto a tutela crescente rispetto al vecchio contratto a tempo determinato sopra i 15 dipendenti dell'articolo 18 più questa norma che è vero che eleva la fonte di diritto della tutela del lavoratore, della garante della privacy, secondo le guide del garante della privacy, dall'altra parte però restringe la facoltà del giudice, che era prima ed era più ampia, di intervenire su eventuali contese, contestazioni da parte dell'impresa al dipendente sull'utilizzo dei beni strumentali come appunto quelli telefonici e dei computer. Questo fa parte di una filosofia. Poi il giudizio su questa filosofia, ovviamente, io non so se sia come dice lei o altri, però fa parte di una filosofia, e credo che fino a questo momento è quello che resterà di più. Che dici, Mario, di questo sì, governo? Ma penso di sì, perché c'è veramente una stretta molto pesante. Cioè, qualcuno faceva osservare in settimana che con il nuovo contratto a tutele crescenti, no, sulla disciplina dei licenziamenti, se una persona viene licenziata perché scoperta, tra virgolette, diciamo, a mandare una mail privata o quant'altro, il giudice non può più sindacare sulla proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione disciplinare interna. Quindi a questa persona spetterà soltanto diciamo un importo economico e non più la reintegra. Quindi se e quando questa intelaiatura, impalcatura di norme andrà a regime e ci sarà stato un ricambio della popolazione aziendale, nel senso che tutti o quasi saranno migrati verso il contratto a tutele crescenti dall'attuale vecchio ordinamento, diciamo che noi andremo a creare un contesto dove ci sarà molto rigore, molto rigore diverso da a volte fuori luogo, a volte più puntuale. Però già oggi non è che un imprenditore non possa, diciamo, stringere le viti, esatto, dove non gli aggrada, perché è la situazione. Esatto, quindi l'ascoltatore prima diceva i server sono in rete ovunque. Voglio dire, le mail sono tracciabili ovunque e tutto dipende dal tipo di utilizzo che ne viene fatto, no? Per cui ho l'impressione che magari, come dicevamo prima fuori onda, magari tra, diciamo, i legislatori del Palazzo Chigi e dintorni c'è qualcuno che ambisce, diciamo, una sorta di ritorno agli anni 50, dimenticandosi. Io vorrei fare un discorso, so che alcuni adesso diranno che sono diventato comunista, cose del genere, però vorrei far notare che la produttività di una persona è funzione anche del contesto in cui si trova ad operare. Perché se tu operi in un contesto aziendale dove vieni considerato un parassita pronto a fottere l'imprenditore, anche quando non è così, è difficile che la tua motivazione vada ben al di là dell'esecuzione becera e bovina delle norme minimali. Teniamolo presente che siamo in una società post-industriale. Questa forma di fordismo che alcuni a cui alcuni ambiscono non quadra benissimo. No, quadra, è totalmente fuori dal tempo. In più, a me fa ridere per il fatto che queste norme, diciamo, se io vado a vedere cosa succede nel mondo pubblico rispetto a quello privato, diciamo che senza colpevolizzare i dipendenti pubblici in maniera generalizzata, però guardate che lo Stato dovrebbe innanzitutto guardare a casa sua, ecco, perché da questo punto di vista, anche questa settimana la nuova indagine che c'era su quella ASL Campana con l'85% dei dipendenti in allegra violazione dei minimi di prestazione di servizio e così via, cioè diciamo, no, a Roma basta vedere le percentuali ad AMA e ATAC che sono scese, ma restano 5-6 volte superiori alla media di astensione dal lavoro per motivi diversi di quelli dichiarati del settore privato e così via. Quindi io penso che per quello non c'è bisogno di cambiare la regola, perché con la regola attuale si può già far tutto. Qui c'è un cambio, non c'è dubbio, e secondo me è la cosa più permanente che resterà fino a questo momento del governo. Sentiamo come la pensa ancora Claudio D'Asti. Prego Claudio. Buongiorno Oscar. Sì. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Ma io volevo semplicemente portare più che a conoscenza, perché gli agenti di commercio sono già in queste condizioni, ma altri forse ancora non lo sanno, che ci troviamo ad avere delle mandanti che ci danno il tablet, ci danno, certo, e ci tracciano. Allora, se l'agente di commercio è un imprenditore libero di organizzarsi come vuole, senza orari di lavoro, senza percorsi predeterminati e quant'altro, io tra l'altro sono anche consigliere nazionale dell'USARCI, che è un sindacato di agenti, stiamo cercando in tutti i modi di far capire questa cosa, che la vediamo come una grossa anomalia, perché tu, come diceva prima, ti chiamano anche sul cellulare personale perché magari non ti trovano su quello aziendale. Siamo arrivati a delle situazioni talmente drammatiche, talmente... Quindi Claudio, per capirci, è un eccesso secondo te questa norma nuova? No, Oscar, se io lavoro per Oscar, sono libero di organizzarmi nel mio territorio con orari, con percorsi come voglio io, tu non puoi darmi, come in certe situazioni, che hanno un tablet dove hanno dei clienti da visitare a determinate ore, per fare degli ordini li fanno sul tablet, così sanno esattamente dov'era a quell'ora, cosa faceva, cioè se devo andare in bagno, se devo... Ok, no, sono no, dei contratti di dipendente mascherati da contratto di agenzia. Chiarissimo, vuol mettere il naso, chiarissimo, stai rivelando che non è solo per il mondo del lavoro dipendente che questa norma rappresenta un cambio molto più profondo di quanto non sembri. Questa è l'acquisizione che esce da questa puntata su questa questione. Quindi chi si aspettava che noi fossimo qui con la banda a dire ecco viva le imprese, forse no, ma visto deluso, che c'è un SMS che dice che i giornalisti fanno i panini a favore dei poteri forti, questo mi sembra di aver appena detto una cosa lievemente differente, però in realtà io ho fatto l'elogio del buon senso, non ho fatto l'elogio della rivoluzione. Esatto, cioè l'idea è che se l'obiettivo è la produttività, le motivazioni di incentivo non funzionano quando si ritorna alle marcette degli anni 50. Allora chiudiamo questo capitolo e andiamo a scuola dei professionisti, ma dopo una pausa di un minuto. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci tornati in diretta, formazione ristretta, Mario Seminerio, Oscar Giannino, e andiamo su questo punto degli professionisti poveri. Quando dico professionisti poveri richiamo qualche dato: redditi medi lordi 2013 dati in euro, dipendente pubblico 35.157 euro di reddito lordo medio 2013, dipendente pubblico, dipendente privato scende da 35.000 a 29.455 euro. Dopodiché andiamo a parlare dei giovani professionisti, perché rispetto ai 35.000 euro lordi medi del dipendente pubblico e ai 29.400 del dipendente privato, sempre lordi e medi, un notaio avvocato sotto i 40 anni sta a 24.000 euro nel 2013, quindi 11.000 euro meno del dipendente pubblico. Un commercialista sta a 23.200 euro rispetto ai 35.000 del dipendente pubblico, un libero professionista di area tecnica, meno di 40 anni, cioè un architetto, un ingegnere, sta a 18.640 euro, 18.000 rispetto ai 35.000 del dipendente pubblico. Poi lasciamo perdere chi sta iscritto alla gestione separata INPS, cioè i freelance senza ordine, e lì siamo a 18.000 euro scarsi. Allora, questa realtà fotografa una caduta, un cambio di parametro, voglio dire, una caduta verticale che inverte la piramide sociale che per decenni è stata associata all'idea libera professione, laurea, forte impegno, formazione, capitale umano e poi redditi in alto. No, non è così. La realtà del nostro paese è diventata in questi anni di crisi una realtà nella quale i giovani professionisti guadagnano cifre non compatibili con una dignitosa esistenza. Qual è il problema? Hanno sbagliato loro l'orientamento rispetto al fatto che ce n'erano troppi, come gli avvocati nel nostro paese, e quindi in definitiva con chi se la possono prendere, se non hanno capito che si guadagna di più e più facilmente si diventa soci associati di grandi studi se ci sono relazioni piuttosto che solo la bravura nell'impegno della laurea, perché ce ne sono troppi. È un problema di come funziona il sistema del welfare e della previdenza professionale. Allora, di fronte a queste domande noi abbiamo sentito delle voci, oltre a chiedervi di intervenire in trasmissione. Quindi per parlarne sono con noi Andrea Camporese, che è il presidente di ADEP, ADEP è l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati. Buongiorno e grazie presidente. Buongiorno a voi, grazie. E il presidente dell'Ordine Forense di Bari, Giovanni Stefani. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, posso cominciare dal presidente dell'Ordine Forense di Bari, proprio perché a Bari ne hanno scritto i giornali, c'è anche una onlus finanziata con il 5 per 1000 degli avvocati per sostenere il reddito dei colleghi in difficoltà. A questi numeri, lei come presidente dell'Ordine Forense che risposta dà? Sbagliano i giovani a continuare a voler fare gli avvocati? C'è un problema invece di ostacolo all'ingresso, di leveling the playing field, per cui insomma si resta troppo per troppi anni negli studi a fare fotocopie e a consentire in realtà che i procedimenti vanno avanti ma non associati al trattamento retributivo che sarebbe equo garantire a questi giovani? Qual è il punto vero per lei? Ma guardi, sicuramente il problema del numero degli avvocati è un problema oggettivo, noi lo abbiamo sempre detto, però certamente non è un problema che può essere addebitato soltanto alla nostra categoria professionale. Certamente c'è stato negli anni, nei decenni scorsi, un problema di accesso che andava probabilmente regolamentato. Nessuno vuole parlare di numero chiuso, ma magari un ingresso programmato non sarebbe stato male adottarlo. Tenuto conto che la vecchia legge professionale, che è stata sostituita nel 2012, conteneva un articolo che poi fu soppresso per motivi di moria degli avvocati nel dopoguerra, un numero programmato all'ingresso all'avvocatura. Ma i problemi non rimangono soltanto al numero, i problemi rimangono anche certamente alla crisi economica devastante che interessa il nostro paese, che non può non investire primi fra tutti i liberi professionisti e fra questi gli avvocati. Se a questo si aggiunge che la crisi altrettanto devastante della giustizia, perché la giurisdizione, che è una funzione fondamentale del nostro ordinamento, non può dirsi che funzioni in Italia. Noi possiamo addirittura azzardarci a sostenere che la giurisdizione in Italia non esiste. Allora è chiaro che un giovane che sceglie la carriera professionale forense si trova davanti a sé dei tempi biblici prima di arrivare a guadagnare. Innanzitutto perché la giustizia, ripeto, non funziona. In secondo luogo perché le strade alternative alla giustizia, secondo noi, non sono state introdotte con le giuste misure perché funzionassero. Ed ancora una politica di intervento sulla struttura fisiologica della professione, e per questo mi riferisco innanzitutto alla politica dei compensi, cioè trasformare la professione forense in un'attività di mercato, noi riteniamo che abbia prodotto già i suoi risultati negativi e devastanti, soprattutto sui giovani, perché l'abolizione dei minimi tariffari, che costituiva una garanzia per qualunque avvocato e soprattutto per il giovane avvocato di vedersi riconoscere un compenso dignitoso, come lei giustamente ha detto, la dignità della retribuzione, oggi non c'è più. perché ci si trova di fronte al libero mercato che si traduce nella libera concorrenza e quindi sull'abbassamento assolutamente. Però sa, io non so se è il libero mercato quello che determina questa condizione, perché credo che una maggior tutela da minor gioco libero nei prezzi non sia la vera risposta. Quello che le chiedo però è altro. Per esempio, molti giovani avvocati ci scrivono incessantemente di considerare l'obbligo, diventato un obbligo, dell'iscrizione alla cassa forense introdotto da questo governo come una delle cose che gli ha fatto saltare definitivamente il livello di possibilità di andare avanti. Ricordo che nel 2013 sono stati 22.000 gli avvocati in Italia che non hanno inviato alla cassa forense il pagamento dei contributi legato al fatturato. Ora con l'obbligo questa cosa diventa un vero problema, una piaga per tutti i giovani avvocati, ce lo segnalano tutti. Lei che dice su questo? No, assolutamente, è certamente uno fra gli elementi che ha inciso fortemente sulle prerogative dei giovani colleghi. Anche perché l'obbligo di iscrizione alla cassa forense e quindi il pagamento di un contributo minimo obbligatorio che sia distaccato dal reddito, certamente è un sacrificio che io ritengo enorme per i giovani avvocati. Cioè, io siamo forse fra le pochissime categorie, se non l'unica, che paga dei contributi obbligatori senza che questi siano parametrati al reddito. E quindi in questa maniera certamente si è posto un ostacolo in più rispetto ai giovani. Le ricordo naturalmente che per i freelance non ordinistici, con gli aumenti di aliquota dovuta scansionati nel tempo della gestione speciale, anche lì è una strage assoluta. Quindi purtroppo non siete gli unici con cui funziona questo. Non siete gli unici. Però compagnia. È un po' singolare non avere, per così dire, da una parte dire non c'è bisogno del numero chiuso. E anzi, il libero accesso alla professione è considerata una garanzia. Dall'altra poi la selezione darwiniana dell'obbligo di iscrizione alla cassa forense. Cioè, è un po' strana questo meccanismo. No, è assolutamente più che strana, io la ritengo addirittura illegittima. Cioè non si può, vede, c'è l'articolo 21 della nostra nuova legge professionale, che è una norma capestro per i giovani professionisti e non solo, perché addirittura in quell'articolo, oltre a prevedersi l'obbligo di iscrizione a cassa forense, ripeto, a prescindere dalla parametrazione al reddito, vi è anche una norma sulla continuatività e effettività della professione che riconduce poi a parametri retributivi, perché se è vero che fu espunto l'inciso del riferimento al reddito per mantenere l'iscrizione all'albo, è altrettanto vero che si è introdotto che fra i parametri possono essere presi in considerazione quelli di cassa forense, quindi quello che è uscito dalla porta è rientrato dalla finestra. Allora accantoniamo per un secondo una questione che le porrò dopo, cioè se non ci sia anche un problema di ritardo nell'organizzazione dei grandi studi pluriprofessionali da una parte, che consentono di offrire una profilatura di servizio ai clienti maggiore della iperspecializzazione del professionista da solo, isolato o solo con due o tre, per dividere le spese, e naturalmente abbattono le spese rispetto a un miglioramento, a un potenziamento trasversale dell'offerta professionale. E questo lo vediamo nella parte successiva del nostro approfondimento. Però vorrei subito chiedere al presidente di ADEP: non è che stiamo crescendo una generazione di giovani professionisti che in realtà dal punto di vista contributivo avranno una discontinuità diversamente tale e quale a quelli che avevano i contratti, finti contratti di lavoro a tempo determinato e che nella realtà vengono ormai accomunati alla realtà di chi non avrà una pensione, sia pur appartenendo alla piramide alta del capitale umano, quello degli ordini professionali? Che dice il presidente Campolini? Questo rischio è un rischio oggettivo. Come diceva lei, la piramide sociale si è invertita. In realtà io credo che non esista e non sia mai esistita una casta professionale. I numeri che lei ha citato dimostrano che c'è stato un vero e proprio terremoto sui redditi, tranne alcune professioni cosiddette anticicliche, come quella dei commercialisti, nonostante i giovani commercialisti soffrano come tutti gli altri. Allora, questa inversione della piramide porta a versamenti discontinui, prestazioni attese, direi medio-basse o basse, con il sistema che ha virato in modo deciso verso il contributivo pro rata. Il ministro Fornero, che ci ha imposto bilanci attuariali a 50 anni e quindi anche un'onda riformista che abbiamo applicato per rientrare nei parametri, ma il punto resta la necessità di generare un welfare completamente diverso e attinente a una tipologia di lavoro discontinua, difficile, con redditi declinanti. E come si fa, secondo me? Intanto noi mettiamo in campo 530 milioni di euro di welfare specifico nelle categorie, senza ricevere un euro dallo Stato. Che cosa significa welfare specifico? Significa aiutare... No, perché ricordiamo che la sua è l'associazione degli enti previdenziali privati. Ecco, privati, ecco. Che sono 19, 2 milioni di professionisti, e, insomma, se ci mettiamo anche i dipendenti di studi, le mogli e i mariti, stiamo parlando di un perimetro di oltre 4 milioni di persone. Allora, noi stiamo cercando faticosamente, ma con i fatti, che sono documentati nei nostri bilanci, di mettere in campo tutta una serie di strumenti, coperture sanitarie pagate per buona parte dal sistema previdenziale, prestiti agevolati a bassissimi tassi, agevolare l'apertura degli studi, rateizzare le contribuzioni e avanti di questo passo. Allora, se è vero che i sistemi previdenziali debbono essere più sostenibili, più in equilibrio, e come lei sa benissimo, è altrettanto vero che se noi consideriamo la materia previdenziale in termini puramente bilancistici e matematico-finanziari, non facciamo più previdenza, diventiamo delle assicurazioni. Allora, ai giovani dobbiamo dare sull'altro piatto della bilancia un sostegno concreto e deciso alla loro permanenza sul mercato. Permanenza che poi deriva anche da un rapporto domanda-offerta, come lei sottolineava e come il Presidente sottolineava, che è oggettivamente, gravemente squilibrato. Non c'è dubbio, però la questione è che per un dipendente che ha l'ammortizzatore sociale, che viene potenziato anche nella riformazione, proprio sempre per un altro pezzo della riforma del Jobs Act, e qui c'è un mondo di professionisti giovani che naturalmente non hanno ammortizzatori sociali né riformazioni, per cui l'uscita, la discontinuità del rapporto professionale rischia di essere una cosa in cui si esce ma non si entra più, cioè questa è diventa la fine di una scommessa di formazione del capitale umano. Stiamo parlando di quarantenni, non stiamo parlando di settantenni. Questo è il punto vero della questione di cui stiamo parlando. Torniamo tra un minuto. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presenta... C'è un settore dell'industria italiana che fa muovere l'economia reale, trasporta la ricchezza, si muove al ritmo del paese. È il settore dell'autotrasporto, che fa arrivare nelle imprese, nei negozi, nelle case, tutto ciò che quotidianamente utilizziamo. Radio 24 vi accompagna in un percorso per conoscerlo meglio. Nei numeri, nei problemi, nelle opportunità, nelle imprese. Gli orari degli appuntamenti su radio24.it. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. C'è il nuovo partner, con ben 4 metri cubi di carico e lunghezza utile superiore a 3 metri. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Nuovo Peugeot Partner, con motori blu HD Euro 6, sensori Bluetooth, touchscreen e navigatore. A 320 euro al mese per 3 anni, con noleggio all'inclusive. In più, manutenzione d'assistenza garantite Peugeot. Scade il 30 giugno, salvo approvazione PSA Renting Italia. Fogli informativi in concessionaria o su peugeotprofessional.it. Agenti.it presenta agenti di commercio alla cacciatora. Prendere il listino prodotti, aggiungere strategie, budget e portafoglio clienti anche potenziali. Cuocere a target lento, fare un giro visite mescolando premi, sconti e promozioni senza esagerare per non bruciare l'utile. Voilà, gli agenti di commercio sono serviti. Agenti.it, la ricetta vincente per la tua azienda. Mi scusi, dove posso trovare un buon investimento? Prenda la prima a destra, al semaforo a sinistra e poi sempre dritto. E arriva in Europa. Mediobanca Europa Callable. L'obbligazione a 10 anni con facoltà per l'emittente di rimborso anticipato dopo 5 anni e un tasso annuo fisso del 2,75% lordo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce una sollecitazione all'investimento. Prima di ogni negoziazione leggere il prospetto su mediobanca.it. Le obbligazioni sono negoziabili sul segmento Domestic Mod. Sono soggette al rischio di rimborso anticipato a favore dell'emittente e il rendimento dipende anche dal prezzo di acquisto vendita. Uni euro. Fino al 2 luglio ogni 100 euro di spesa Uni euro ci regala 20 euro in buoni sconto. E con quelli ad agosto mi compro tutto quello che voglio. Che vuoi? Ai. Che vogliamo, amore? Dettagli, esclusioni e negozi aderenti su unieuro.it. Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Bing. Traffico News. L'imprevista inversione dei BTP sta causando rallentamenti da questa mattina e si segnalano code a tratti sugli spread dell'eurozona. Il Dow Jones procede scorrevole, mentre per Hong Kong si segnalano deviazioni. Si consiglia di mettersi in marcia solo con Bing. Con Bing Bank ogni giorno è un buon giorno per fare trading. Per i tuoi investimenti scegli lo specialista del trading online. Apri subito il conto. Messaggio pubblicitario. Fogli informativi su bing.it o chiama l'800 90 58 45. Della belva. 11:39 primi, un record di batteria di pubblicità. Prima torniamo in diretta qui con la formazione stretta dei Conti della Belva. Mario e Oscar Giannino, ci stiamo occupando dei professionisti giovani neoproletarizzati, neoprecarizzati, redditi un terzo pari a quelli del lordo medio dipendente pubblico italiano, obblighi previdenziali e iscrizioni alle casse in crescita a prescindere dal reddito, quindi una situazione di fortissimo disagio. Sentiamo come la pensa Cosimo da Roma. Cosimo, prego. Sì, Oscar, buongiorno, grazie. Buongiorno. Per la diretta. Volevo dire due cose. Uno sul Job Act. Da tempo penso che il governo vara norme che puntano a controllare i dipendenti. Poi non si controlla i suoi in casa, ma cosa più grave, non valuta effettivamente quello che fanno. Cioè, io mi aspetterei che un dipendente venisse valutato in base a quello che fa e non alle mail che manda. E mi spiego meglio. Le multinazionali americane ti danno un obiettivo e tu lo devi raggiungere entro un determinato tempo. Se lo riesci a fare prima, prendi un premio. Ecco, mi piacerebbe che si facesse questo anche alla pubblica amministrazione. Non so se rendo quello, l'esempio. Quindi, è quello che dicevo io prima. Esatto. L'orientamento all'obiettivo anziché ad una serie di passi formali e di buona condotta che non si sa da dove origini. Comunque, purtroppo siamo lontani da quello nel settore pubblico. Ti ripeto, l'esempio è quello della vicenda del salario di merito spalmato a tutti i dipendenti, dei 23.000 dipendenti comunali di Roma, e con la politica completamente d'accordo nel farlo. E dopodiché un intervento del MEF adesso che renderà ancora più problematico superare in meglio questa faccenda. Quindi insomma, lasciamo perdere. Cosimo, dicevi? No, dicevo assolutamente sì, mi fa pensare a questo punto che gli interessi della politica non siano a salvaguardare il popolo italiano, ma siano esclusivamente a premiare una casta un po' più allargata, che è quella anche della parte pubblica, e questo è pazzesco, cioè, perché quando vai contro il popolo significa che c'è qualche cosa che non va, no? Direi di sì. Va bene, grazie Cosimo. Allora, torniamo un secondo con il presidente dell'Ordine Forense di Bari. Ha un professionista che non è nella faccia dei giovanissimi, sentire parlare, come è avvenuto questa settimana, lo ha fatto Repubblica, del fatto che anche gli avvocati, gli architetti e così via in realtà hanno bisogno oramai degli ammortizzatori sociali come lavoratori dipendenti, che effetto fa, Presidente? L'effetto non può che essere negativo, nel senso che è perché è una presa di consapevolezza, di coscienza di quella che però è la realtà. Cioè, ormai, come si diceva prima e come lei giustamente ha detto in apertura, la piramide invertita, quelle che erano le categorie professionali che costituivano il motore economico del paese, oggi non lo sono più, per le ragioni che abbiamo già detto e per tante altre. E le riforme non vanno nella direzione giusta. Il professionista è colui che muove tanta economia, dai dipendenti dello studio, dagli interventi tecnologici nel sistema e tantissime altre risorse di cui il professionista deve dotarsi, oggi fa molta fatica a spendere i soldi per queste cose. Ah, non c'è dubbio. Ed ecco perché noi abbiamo pensato alla costituzione di una ONLUS che vada a supplire la carenza di ammortizzatori sociali per i liberi professionisti, che sono liberi, sono professionisti anche, sono lavoratori anche loro. Sì, sì, forme di famiglia, per esempio, mi piacerebbe, se lei me lo consente, citare un caso assolutamente unico nel nostro paese. È stato istituito, e stiamo per concordare la seconda edizione, un fondo sulla genitorialità dei liberi professionisti. No, ma si torna per certi versi in forma tecnologicamente più avanzata e sinergizzata con le nuove risorse pubbliche, ma l'idea delle casse di mutuo soccorso professionali e interprofessionali, da cui nasce in realtà la solidarietà del mondo del lavoro con se stesso nell'Ottocento. Sentiamo Ilaria che ci chiama da Roma, nella sua esperienza. Ilaria, lei cos'è, una giovane professionista? Io non sono tanto giovane, sono una professionista, lo faccio da sempre, nel senso che non sono mai stata dipendente in vita mia, e a 37 anni, dopo un bambino eccetera, mi rendo conto che oggettivamente qualcuno che mi paga mi pagasse in una maniera decente non esiste, nel senso che io guadagno ancora meno di 18.000 euro l'anno, nonostante sia qualificatissima, abbia lavorato con gli americani, abbia fatto tutti i corsi di aggiornamento, sia coordinatore della sicurezza. Posso fare una domanda? Si è pentita della sua scelta? Sì, io vedo le cassiere del supermercato, le invidio, ma sto scherzando. Io mi sono uccisa per riuscire a laurearmi e diventare una persona intelligente, diventare una persona utile per la società, e vengo pagata meno della cassiera del supermercato, questa è la realtà. È un meno di tutele, meno, non è valsa la pena. I miei genitori mi hanno sempre detto studia, che non è assolutamente vero, va benissimo fare la cassiera del supermercato, io guadagno meno di una cassiera del supermercato, quindi cioè non vale assolutamente la pena. Quindi diciamo che sull'orientamento di suo figlio o sua figlia questa esperienza avrà un certo peso, per così dire. Beh, non lo so, cioè, io potrò dire a mio figlio, certo, gli trasmetterò il fatto che la cultura comunque forma una personalità adatta, perché poi sente della gente e dice delle cose indegne, però perché non ascolta la radio, non la capisce se la ascolta. Però oggettivamente la libertà che ha oggi un dipendente, non parliamo del dipendente pubblico, non c'è neanche bisogno di lavorare, sì, ma no, del dipendente privato, è infinita rispetto alla mia. Allora, io ringrazio Ilaria, ma l'amarezza di questa testimonianza fotografa una realtà che secondo me molti del lavoro dipendente ignorano, ed è invece un'altra realtà della crisi terribile. Ci sono sconvolgimenti profondi nelle rotture, come rotture di continuità di lungo periodo nella storia italiana in questi anni. Non è che sono accadute solo in Grecia. In Grecia hanno, Mario, una gravità evidente, però ci sono e attraversano anche la società italiana. Secondo me verrà un giorno in cui ci renderemo conto che sono più profonde e gravi di quanto credessi. Sì, sì, assolutamente. Cioè, queste vicende, la distruzione del capitale umano che emerge da questa telefonata, perché di quello si tratta. Cioè, noi avremo, questo ne avevo anche accennato nel mio libro, è praticamente la gente dirà: ma chi me lo fa fare di investire su me stesso se non c'è un ritorno sull'investimento? E di conseguenza, cioè, sarebbe irrazionale fare una cosa del genere. E questa è una cosa su cui riflettere, perché già siamo un paese che nel corso dei decenni non ha ritenuto di sviluppare un proprio modello economico o di privilegiare un certo tipo di sviluppo, diciamo, del valore aggiunto, eccetera, no? Cioè, sono piccole aree di eccellenza, macchie di leopardo, eccetera. E adesso rischiamo veramente, ribadisco fino alla nausea, con la demografia che ci gioca contro, di diventare un paese di net sulle nuove generazioni, cioè gente che non lavora, non studia, non fa attività formativa. Perché? Perché hanno scoperto i loro genitori, i loro fratelli maggiori, eccetera, che hanno fatto tutto ciò e si sono rotti i denti contro questo muro della realtà. Però guardate che non c'è una soluzione né semplice, come invece qualche, diciamo, immagino, incantatore di serpenti continua a ripetere quotidianamente, al punto da bersi uscire dall'euro. No, vabbè, ok, vabbè. E però non è neanche una soluzione di breve periodo. Esatto. Non è neanche una soluzione di breve periodo. È questo che mi rende così pessimista. Ma non perché io sia pessimista perché sto recitando un ruolo, perché sto vedendo ragione. Una tendenza di fondo. Ci sono troppi fattori che convergono su questo freno, con la demografia che ci sconfigge per definizione, a bassissima produttività. Ne abbiamo parlato ieri la versione di Oscar, parlando proprio della produttività da 20 anni e ponendoci il problema. Ci sono troppi fattori contestuali e noi facciamo il nostro mestiere nel farvi riflettere, ma è l'amarezza e la sconfitta di milioni di persone che costituisce il substrato di questo problema, eh? Ed è una cosa che non si ferma con la propaganda, per così dire, perché c'è bisogno di cambiare molte cose. Un mondo previdenziale che va in ascesa automatica degli obblighi contributivi su categorie che hanno un reddito disponibile con cadute verticali, capite che è un mismatch pazzesco, quindi significa che bisogna avere una capacità di osservazione rispetto all'andamento reale dei redditi, delle possibilità di mercato, e costruire delle curve di obblighi e di equilibri di diritto collegati, non a prescindere. Un mondo che funziona a prescindere significa sempre più bassa produttività, sempre meno gente che lavora, conti pubblici che esplodono, ma redditi privati che decadono, e soprattutto nel cambio generazionale obiettivi che saltano, perché non ci sarà più il traguardo che ha mosso tutta la generazione che aveva portato poi l'Italia invece a recuperare i gap di prodotto e produttività. Ecco, questa è la nostra grande preoccupazione, e nel ringraziare Andrea Camporese e Giovanni Stefani torniamo tra un minuto col nostro Renato Cifarelli. Non si può fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta per la chiusura dei conti della Belva, mentre nella prima trasmissione andavamo in onda guardavo con l'occhio un scambio polemico su Twitter tra un collega giornalista e Franco Bassanini, giubilato da presidente della Cassa Depositi e Prestiti, dopo essersi secondo me giustamente opposto alla maniera con cui il governo ne chiedeva la testa, e che però resta come consigliere di Cassa Depositi e Prestiti, resta presidente di MetroWeb, concorrente di Telecom, diventando consulente del Premier sulla banda larga, insomma, voglio dire, tutta la vicenda della CDP è un po' singolare. Ma la polemica era tra Bassanini, che diceva a un collega di CNBC Class, dicendo: voi su CDP avete sbagliato tutto, dovevate aspettare i comunicati del governo. Allora, l'informazione non è aspettare i comunicati, gli risponde il collega di Class NBC, con cui sono d'accordo, e soprattutto che il problema è stato proprio che il governo non ci ha detto perché si muoveva su Cassa Depositi e Prestiti in questo modo, cacciando i vertici un anno prima. In che cosa consiste la svolta che vuole imprimere a Cassa Depositi e Prestiti? La vuole rendere più attiva nell'intervento economico? Ma se ha 21 miliardi di mezzi propri e partecipazioni per 30? Insomma, non lo sappiamo. Solo per dire a Franco Bassanini, a distanza, solidarietà per essere andato a casa un anno prima, e contemporaneamente però, cioè, la povera informazione deve dire qualche cosa. Si tratta del risparmio degli italiani, Mario. Sì, ma questo non dipende da Bassanini, però, c'è un signore a Palazzo Chigi e altri a dintorni, esatto. Anche un altro signore in via 20 questo. Settembre che devono dirci cosa vogliono fare del risparmio postale degli italiani. Il governo. Questo è il punto. Allora, Renato, sei con noi, Renato Cifarelli? Buongiorno. Eccoci qua, abbiamo mancato perché eri in una cellula telefonica troppo gremita la settimana scorsa e avevo timore che anche questa settimana venisse così. Questa settimana sono una bella Brianza, un matrimonio. Ah, un matrimonio. Bello. Di che ci parli? Ah, oggi volevo raccontare che lo Stato, anzi il mio comune, ha certificato il fatto che io non faccio nulla, perché qualcuno questa settimana mi ha preso in giro. Io nella bio di Twitter ci ho scritto che nel tempo libero faccio l'amministratore delegato, sì. E allora qualcuno mi prendeva in giro per questa cosa. Il mio comune ha certificato questa cosa, quindi io quando ho comprato la casa l'ho comprata usata, sì. E solo recentemente ho scoperto che era accatastata con i due piani su due mappali diversi, è una roba un po' tecnica. Comunque la cosa divertente è che quando io pago l'IMU, pago per il secondo piano l'IMU della seconda casa. Cioè io quando sono in basso, dove ho la cucina, sono in pratica a casa mia, e quando vado a dormire la sera di sopra sono in vacanza. E quindi il mio comune ha certificato il fatto che io solo nel... No, vabbè, ma dai, ma sarà bastata una banale osservazione al comune per far rettificare. No, naturalmente no, perché poi siccome la belva è affamata, naturalmente i comuni ti dicono ah no, deve fare tutte le pratiche, e fare tutte le pratiche, sai che quando vai al catasto poi c'è sempre qualcosa che non va bene, ma comunque poco male, dai, così mi sento in vacanza quando sono alla, no, però è alla una, sera a dormire. È bellissimo, deve essere, basta scendere una rampa di scale. Sì, in questo caso salire, così, perché era il secondo piano che è stata trattata come seconda... seconda casa, però è divertente, dai. Almeno sono in vacanza. Invece, purtroppo oggi mi sono perso la trasmissione, perché sai che avevo l'argomento che mi stava un po' a cuore, quello lì del controllo a distanza, del controllo come lo distanza. Chiamano, sì, sì, come sì. Lo chiamano. Ma nella tua azienda tu farai nazismo puro sui dipendenti con queste norme? Ma allora, il problema, io adesso ho avuto una settimana un po' pesante e non ho ancora fatto tempo a studiarla bene. Credo che l'unica differenza sostanziale sia poi l'utilizzabilità dal punto di vista penale davanti al giudice, perché quello lì è cercare di fermare il tempo, è un po' come quando cerchi di fermare un fiume con un cucchiaio, no? Cioè, ormai tu se da un lato devi garantire la sicurezza dei dati e quindi devi avere accessibilità piena almeno da parte degli amministratori con tutte le cose che ci sono a livello di privacy, per carità, però devi avere accessibilità piena a tutti i dati che tu hai in azienda, quindi compresa la posta elettronica, eccetera, eccetera. E dall'altro? E dall'altro tu non puoi accedere. Esatto. No, quindi cioè, è sempre un po' io devo garantire che i miei dipendenti non commettono reati con la posta elettronica aziendale. Perché se no ne sei responsabile per la 231. No, no, e questo però contemporaneamente non posso controllare. Allora, il vero problema è sempre il solito, quello della fiducia. È quello della fiducia, però, che si fa non solo con le norme, soprattutto con le atmosfere giuste nelle imprese, come dicevamo prima. Allora, grazie anche a Renato Cifarelli, grazie a Mario come sempre. Io vi ringrazio, continuate su Radio 24 e ci sentiamo come lunedì, ma sabato prossimo per i conti della Belva.